Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un libro che si pone un ambizioso obiettivo, quello di riflettere su come si sia formata la cultura europea negli ultimi due secoli. Ne è autore un docente che attualmente insegna al Queen Mary College di Londra e che conosce particolarmente bene l'Italia per aver studiato anche nel nostro paese a Milano. Si chiama Donald Sasson e il libro che vi presento è La cultura degli europei dal 1800 a oggi, pubblicato da Rizzoli. 1600 pagine, 45 euro, tradotto da Chiara Beria, Monica Bottini, Elisa Faravelli e Natalia Strabilini. Come avete sentito anche dal numero delle pagine, è un libro certamente impegnativo, ma altrettanto appassionante. Non è un bigino o un riassunto degli sviluppi artistici europei, non trovate una storia della letteratura, della pittura nei vari paesi del nostro continente. Si tratta invece della storia, come precisa l'autore stesso, della straordinaria espansione del consumo culturale che proprio a partire dall'Ottocento diventa sempre più pervasivo e popolare. Prima, per molti secoli, anzi per millenni, la cultura era appannaggio di pochissime persone, pochissimi si potevano permettere un libro, le immagini erano quelle che si potevano vedere soltanto nelle chiese. Poi tutto cambia e la nostra vita diventa intrisa di cultura, di informazione, di creatività e ruota intorno ai prodotti attraverso i quali questa cultura e questa creatività si esprimono. La cultura diventa così democratica e popolare, suscitando addirittura l'interrogativo se ciò che sia popolare possa ancora essere chiamato cultura nel senso aulico e solenne che molti continuano ad attribuire a questo termine. E proprio di questo il libro parla, considerando gli effetti delle innovazioni tecnologiche, il rapporto col mercato, lo sviluppo di autentiche industrie culturali. Mi ha colpito in particolare una scelta che Sasson fa nella sua esposizione, quella di non parlare di arti figurative nel mondo contemporaneo, e spiega per quale ragione fa questa scelta, perché dice considera evidente la natura speculativa del prodotto, queste sono le sue parole, dell'arte contemporanea, che si rivolge ancora o di nuovo, potremmo dire, a un pubblico eccezionalmente ristretto, fatto dei collezionisti, dei mercanti d'arte e dei direttori dei musei. E questo naturalmente deve far pensare sulla presa che le arti figurative possono avere nell'accezione comune sull'opinione pubblica. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno Donald Sasson. Buongiorno. Professor Sasson, nel suo libro lei scrive che oggetto del suo libro è la storia della cultura come storia di una produzione fatta per il mercato, quindi lei sottolinea la centralità del mercato nella produzione culturale. Questa centralità contrasta con una visione elitaria della cultura che permane in molti strati della popolazione, magari anche da chi consuma molta cultura. Sì, certo, sì, c'è una visione romantica della cultura come qualcosa che si fa per gli altri, per il mondo, qualcosa che si consuma per migliorare se stessi, e indubbiamente c'è anche questo, ma non dobbiamo dimenticare, ed è questo che sottolineo nel mio libro, che comunque anche la produzione di quello che si chiama generalmente alta cultura, anche questa ha bisogno di strutture economiche che portino questa cultura, ha bisogno di case editrici, di giornali, di case cinematografiche, di un sistema di media e così via. È per questo che ho voluto dare un'enfasi particolare su appunto la struttura economica che sottende tutta la produzione culturale, sia alta che bassa. Sullo sfondo della sua analisi rimangono gli Stati Uniti, il libro infatti si intitola, ricordo, La cultura degli europei, ma oggi si stanno omogeneizzando i due mercati culturali nel modo in cui funzionano? Non vi è dubbio che una delle cose più spettacolari del XX secolo, soprattutto della seconda metà del XX secolo, è il fatto che gli europei consumano sempre di più, almeno fino a recente, cultura americana. E questo tra l'altro è una delle parti più importanti del mio libro, però bisogna anche aggiungere che una buona parte della cultura americana è di origine europea e una parte del suo successo è appunto questo, che gli americani sono stati in grado di riciclare, rinnovare un'ampia parte della cultura tradizionale europea, riproporla sia a loro stessi, e bisogna ricordarsi che gli Stati Uniti sono un mercato composito, sono loro stessi gran parte dall'Europa e da altri paesi, non sono una cosa monolitica, e dall'altra questo riciclaggio di cultura è stato poi riesportato verso l'Europa e anche verso il resto del mondo. Quanto alla questione dell'omologazione, sì, questo è vero, ma bisogna anche ricordarsi che anche nel XIX secolo la grande cultura di massa era relativamente formulaica. Una gran parte della cultura ripete dopo tutto quello che è stato proposto prima, e anche nel Medioevo abbiamo esempi costanti di ripetizione della cultura. Prendiamo per esempio il Rinascimento italiano, che è una delle grandi glorie della cultura italiana. C'è un'enorme quantità di ripetizione nei dipinti, nei soggetti religiosi, soggetti di mitologia che si ripetono in continuazione. E in questo senso, rimaniamo all'Italia, lei che la conosce così bene, come si colloca l'Italia in questa analisi che lei ha fatto sui mercati culturali? C'è qualche particolarità del mercato culturale italiano? La grande particolarità del mercato culturale italiano nel XIX secolo è la sua grande produzione di opera lirica. Se ci sono dei generi che hanno dominato la cultura europea, si può parlare per il lato del romanzo, la dominazione da parte della Francia e della Gran Bretagna, per la musica sinfonica e da camera, della produzione dei paesi di lingua tedesca. Da parte dell'Italia non vi è dubbio che l'opera lirica è stato un alto momento, e però io cerco sempre di riportare queste cose a spiegazioni per così dire materiali. Il numero di teatri in Italia nell'Ottocento era di gran lunga superiore a quello degli altri paesi, e dunque vi era un incentivo economico da parte dei compositori italiani di dedicarsi alla lirica invece che di dedicarsi alla concertistica. Poi ci sono stati anche degli export notevoli che nel lato della letteratura, che non sono quelli che di solito che si studiano nelle scuole italiane, Promessi sposi, eccetera, romanzo non noto nel resto dell'Europa come naturalmente lo è in Italia, ma penso invece a cose come Pinocchio, per esempio, che è stato probabilmente il libro dell'Ottocento italiano che ha avuto più successo nel resto dell'Europa. Se si passa poi alla seconda metà del XX secolo, vediamo che l'Italia ha adottato una strategia, non conscientemente, ma comunque ha adottato una strategia che andava sul prodotto di qualità per quello che concerne il cinema da export, e dunque i grandi direttori, i grandi registi italiani, Rossellini, De Sica, Visconti, eccetera, e dall'altra parte ha una produzione di quello che viene definita la commedia all'italiana, una produzione essenzialmente per un mercato interno di prodotti che non erano concorrenziali con quelli che venivano dagli Stati Uniti. Bene, grazie a Donald Sassone, autore della Cultura degli Europei. Un'opera ugualmente ambiziosa che ha fatto molto discutere, tanto da essere ormai considerata un classico, è riproposta da Rizzoli. Si intitola Il canone occidentale, i libri e le scuole dell'età. L'autore è uno degli intellettuali più noti e controversi d'America, Harold Bloom, che nel 1994 scrive questo libro anche come reazione alle tendenze che cominciavano a manifestarsi nelle università americane al politicamente corretto e al rifiuto di studiare i grandi classici della letteratura occidentale per negare una presunta superiorità di questi scrittori e per affermare una logica multiculturale. Queste edizioni di Rizzoli sono 588 pagine, costa 14,50 euro ed è stato tradotta da Francesca Saba Sardi. La politica alla quale Harold Bloom voleva appunto rispondere, a suo parere, fa sì che si sfugga al giudizio estetico sulle opere e si cada viceversa nel giudizio di tipo puramente ideologico. E allora Bloom vuole reagire costruendo un autentico canone, un corpus di 26 autori e autrici irrinunciabili. Senza di loro, senza il canone, scrive Bloom, smetteremmo di pensare. I 26 autori sono tutti trattati con profondità e passione, ma due svettano su tutti: Shakespeare e, forse su un gradino leggermente inferiore, Dante. Questi ultimi, entrambi, dice Bloom, sono la letteratura, anche se il primo, cioè Shakespeare, è il centro del canone. E vi voglio proporre proprio alcune righe dedicate da Bloom al nostro grande Dante Alighieri. La Divina Commedia continua a essere la più misteriosa di tutte le opere letterarie che il lettore ambizioso possa incontrare e sopravvive sia alla traduzione sia allo studio approfondito. Tutto ciò che permette al lettore comune di leggere la commedia deriva da caratteristiche spirituali di Dante che sono tutto fuorché pie nel senso più tradizionale del termine. In fondo Dante non ha nulla di davvero positivo da dire sui suoi precursori o contemporanei poetici e fa un uso davvero poco pragmatico della Bibbia, ad eccezione dei Salmi. È come se pensasse che Re Davide, antenato di Cristo, fosse l'unico predecessore alla sua altezza, l'unico altro poeta davvero capace di esprimere la verità con coerenza. Come scoprirà ben presto il lettore che si accosta a Dante per la prima volta, nessun altro autore secolare nutre la convinzione così ferma che la sua opera sia la verità più importante. Tutte le concezioni e le immagini ricevute subiscono straordinarie trasformazioni in Dante. L'unico poeta la cui originalità, inventiva e straordinaria fecondità facciano davvero concorrenza a quelle di Shakespeare. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ci eravamo lasciati parlando di Dante, vi voglio segnalare due bellissime edizioni della Divina Commedia, del tutto particolari. La prima è quella illustrata con i disegni di Sandro Botticelli, un autentico capolavoro, questo corpus iconografico del grande pittore fiorentino. Questa edizione è stata pubblicata dalle Lettere, sono 476 pagine, 68 euro. È molto interessante ricordare anche la storia di questi disegni di Botticelli, ci aiuta a farlo Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore. In effetti si tratta di una grande occasione, questa della pubblicazione della Divina Commedia con il corredo illustrativo delle illustrazioni che il grandissimo Sandro Botticelli approntò alla fine del 1400 per realizzare un codice lussuosissimo che conteneva appunto la Divina Commedia di Dante Alighieri e le sue illustrazioni manoscritte. Si trattava di un libro unico, quindi di un codice, quindi importantissimo, rarissimo, che gli venne commissionato da Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, che era il cugino di Lorenzo il Magnifico, anch'esso mecenate e molto generoso con gli artisti. Questa commissione costò molta fatica a Botticelli, che approntò qualcosa come un centinaio di fogli molto grandi, di fogli in pergamena, quindi in pelle di agnellino, e sopra questi fogli illustrò i 100 canti, uno per foglio, i 100 canti della Divina Commedia. Fu un'operazione piuttosto complicata dal punto di vista editoriale, perché si trattava di un lavoro molto lungo che Botticelli realizzò partendo dal testo che era stato scritto dietro il foglio che lui doveva illustrare e che cominciò a realizzare con un disegno molto raffinato a penna, disegnando quindi tutte le storie con la penna, e poi cominciò dall'inizio a decorare con i colori questi disegni. In realtà l'opera fu portata talmente per le lunghe che rimase incompiuta. Noi abbiamo solo pochi disegni colorati e invece quasi tutti i disegni che si sono conservati sono a penna. Di questo nucleo che sappiamo essere di 100 fogli, sappiamo anche che il povero Botticelli non riuscì a realizzarli tutti, anzi arrivò quasi alla fine, ne realizzò 98, e poi la storia piuttosto rocambolesca di questo insieme di fogli ha fatto sì che se ne sono persi per strada circa una decina. Oggi si conservano una novantina di fogli, purtroppo non tutti nella stessa sede, perché la storia di questo codice appunto ha dei risvolti piuttosto avventurosi. Infatti quando vennero poi venduti e dispersi dalla collezione Medicea, finirono tutti quanti a Parigi nel mercato librario, nel mercato antiquario. Qui vennero acquistati in due momenti. A metà 600 il libraio di Cristina di Svezia, della regina Cristina di Svezia, che viveva a Roma, avvistò 7 di questi fogli, li comperò e li portò a Roma proprio per essere conservati nella biblioteca della regina, la quale poi morendo ebbe un cardinale come erede, il cardinale Azzolino, e il cardinale Azzolino a sua volta lasciò in eredità al cardinale Ottoboni questi 7 fogli, il quale da ultimo donò alla Biblioteca Vaticana i Botticelli, e quindi questo nucleo di 7 fogli si trova oggi nella collezione della Biblioteca Vaticana. Il grosso invece di questa commedia illustrata prese una strada diversa. Nel 1803 ancora è a disposizione sul mercato antiquario librario di Parigi e viene comperata scritta dal duca di Hamilton, che lo porta, naturalmente, porta questo nucleo in Inghilterra e lo conserva nella sua casa di campagna. Nel 1882 la collezione della biblioteca di Hamilton viene messa all'asta da Sotheby's e c'è un attentissimo funzionario che si chiamava Friedrich Lippmann, che era il direttore del gabinetto reale di disegni e di stampe di Berlino, che avvista questo importantissimo nucleo, anzi il nucleo principale di questo codice, e addirittura, pensate, fa una turbativa d'asta, cioè impedisce che Sotheby's metta all'asta regolarmente questo foglio per prendere tempo ed avere i soldi necessari, raccimolare il denaro necessario per comprare il nucleo fuori asta. Sono operazioni che gli riuscirà, infatti noi oggi possiamo andare a Berlino e nel gabinetto delle stampe dei disegni di Berlino il grosso della Divina Commedia illustrata da Botticelli si trova lì. Pochi anni fa abbiamo avuto la fortuna in Italia, alle scuderie del Quirinale, di vedere riunita tutta insieme in una mostra questa bellissima e commovente, perché si tratta di disegni che l'artista ha sentito molto forti, tra l'altro in una tradizione cittadina che vedeva altre illustrazioni, altri libri illustrati, e lo stesso Botticelli aveva tentato un'operazione precedente negli anni Ottanta che non andò in porto, e oggi questo volume ci permette di nuovo di rivedere riunita in un'unica e organica struttura questa serie di fogli bellissimi, tra l'altro appunto avendo l'opportunità di leggere anche il testo di Dante che è corredato e che è insieme. L'altra edizione molto particolare e molto bella della Divina Commedia è quella illustrata da Alberto Martini, uno degli artisti più interessanti del Novecento. Visse fra il 1876 e il 1954, che si misurò nell'arco della sua lunga carriera almeno in 3 riprese con Dante Alighieri e con la Divina Commedia, a partire dall'illustrazione della edizione per Alinari del 1902. Alberto Martini lasciò così un corpus di 297 opere e ritroviamo queste illustrazioni nell'edizione della Divina Commedia pubblicata da Mondadori, 416 pagine, 80 euro. Mondadori che in qualche misura colma anche un debito, perché Martini si era rivolto ad Arnoldo Mondadori per pubblicare questa edizione dopo la guerra, ma Mondadori, che pure si era entusiasmato, gli aveva spiegato che dati i tempi non si potevano lanciare delle edizioni così ambiziose. Adesso quest'opera è alla portata di tutti e ritroviamo qui naturalmente un approccio totalmente diverso da Botticelli, ma ugualmente significativo per valutare l'impatto su un grande artista dell'opera di Dante, al cui carattere Martini sembra ispirarsi quando, per esempio, scriveva: «L'esempio di Dante mi spinge talvolta all'invettiva, ma non chiedo indulgenza per il mio lavoro, che considero una nuova strada che altri certamente seguirà. La furbesca modestia e la viscida ipocrisia sono mostri che so allegramente dispregiare». E naturalmente quest'opera serve anche per accostarci a questo grande artista, di cui nella prefazione Vittorio Sgarbi sottolinea il talento originale e l'ispirazione psichicamente alterata che si riflettono in un tratto nervoso scavato e inconfondibile. Un'altra sorta di breviario o di guida estetica e sentimentale alla grande letteratura, in questo caso però del Novecento, è La malattia dell'infinito, la letteratura del Novecento di Pietro Citati, pubblicato da Mondadori, 542 pagine, 22 euro. Qui troverete alcuni saggi e articoli sui maggiori scrittori italiani e stranieri del secolo scorso, riletti, presentati e commentati da Citati. L'elenco è lunghissimo, quasi sterminato, tale da rappresentare una sorta di invito alla lettura di questi grandi attraverso le scelte di un critico e scrittore dallo stile suggestivo e suadente, capace di rivolgersi e di appassionare il lettore comune. Naturalmente, nel canone occidentale di cui stiamo parlando non c'è soltanto la letteratura e la pittura. Vi voglio segnalare un classico breve ma significativo sulla storia della musica. Si intitola Breve storia della musica, per l'appunto, di Alfred Einstein, che è uno dei più grandi musicologi del Novecento. È pubblicato da SE, 158 pagine, 19 euro, tradotto da Enrico Pasquali. Un classico, dicevo, quest'opera del 1934, ed è una guida ancora utile, soprattutto, nota Quirino Principe nella sua presentazione, a chi ama la musica e ne abbia esperienze d'ascolto. Poiché abbiamo parlato con Sasson della musica italiana, in particolare dell'opera, vi propongo, tratto da questo libro, un breve ritratto di Giuseppe Verdi. Intellettualmente e musicalmente, Verdi è l'antitesi di Wagner. Il centro delle sue opere è costituito dall'animo umano, tragico o umoristico che sia, e quindi il rapporto tra voci e orchestra è nella sua opera totalmente opposto a quello wagneriano. La linea vocale di Verdi è il mezzo dell'espressione, l'orchestra ne è lo sfondo. Risulta il fascino immediato e irresistibile della sua melodia, l'umanesimo latino in contrasto con l'impressione simbolicamente mediata che nasce dalla romantica proporzione tra canto e orchestra. L'elemento decisivo, in ultima analisi, è la grandezza artistica di Verdi. Decisiva è la sua sincerità, la sua integrità di uomo e di artista, il suo amore della semplicità, la sua coscienza, che semplicità significa forza. Il confettino. In occasione del giorno della memoria, che cade martedì, segnalo un libro per ragazzini di Katie Kesser, Un posto sicuro, è pubblicato da Giunti Junior, 192 pagine, 6 euro, tradotto da Duccio Viani. L'autrice è la figlia di sopravvissuti all'Olocausto che ricorda ai ragazzi la storia vera di Edith Schalb, la figlia di un noto giocatore di calcio che dopo l'annessione del Reich dell'Austria decide di mettersi in salvo con la famiglia dalla persecuzione contro gli ebrei. Il destino porterà questa famiglia a Moissac, in Francia, dove una casa degli scout ebrei di Francia poté mettere in salvo centinaia di bambini ebrei grazie alla collaborazione della cittadina tutta, che non tradì il segreto e la missione di quella istituzione. E ai genitori che vogliono partecipare a questa giornata segnalo il libro La guerra di Clara, di Clara Kramer, è pubblicato da Tea, 340 pagine, 10 euro, tradotto da Maddalena Togliani. Anche questa è una storia vera, autobiografica, di una signora 81enne che oggi vive negli Stati Uniti e che ricorda la sua esperienza di quindicenne ebrea che riuscì con la famiglia a salvarsi in una fossa scavata sotto la casa di una famiglia tedesca a Zolkiew in Polonia. La bambina tenne in quell'occasione un diario che darà origine a questo libro che racconta quell'avventura, anch'essa caratterizzata, come avete sentito, da una prova di altruismo manifestata nei confronti degli ebrei. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Valeria Bernardi in regia. Passo la parola al respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.